10, circo 10, circo 10. Circo, circo, circo, canale 10, c'è qualcuno? Circo 10, circo 10, c'è qualcuno? Come vuoi andiamo, certo. Andiamo! Quella di prima. Lui faccia stare. Ma spinge di più questa o che cosa? Questa spinge anche come segnale, di più spinge come radio, chiara, bella, prepotente, ignorante come mi chiamo io quando sono belle. Vabbè, questa è l'assurdità, stavo facendo proprio con un'altra radio, aspetta che attacco i nobili, sui nobili è un caso da morire, scusate, ma eccomi di nuovo, e beh oggi è quello che sta combinando, non è quello che è oggi. Vabbè, lui ci fa il suo lavoro, ti volevo chiamare una cosa, vabbè, come che posso salire in officina, vabbè, tu dici quando vuoi, però per cercare di fermare quei cosi, di mettere, se ricordi che volevo bucare, soppiattare qualcosa sotto per fermarli. Aspetta, qualcuno ha parlato sopra, chi è avanti? Vabbè, forse è anche simpatico. Cos'è che volevi bloccare? Ma quelli delle fiaccatine stai dicendo? I paragambe dell'anno, ti ricordi che sotto vanno fissati? Io volevo bucare per fissarli. Ci possiamo inventare qualcosa per fissarli? Ma bucare quella cosa secondo me è un peccato. Bisogna trovare una soluzione, studiare qualcosa di senza rovinare troppo, mi hai capito? Che sia carino, magari mettere, se devi bucare, mettere quelle viti a testa tonda, esagonale, con la testa esagonale, carina, in acciaio inox, perché c'è anche una cosa bella a vedersi. Sì, ma quello non problema, quelle ci trovano. Forse tu riesci a trovarle meglio, una strapata di avvolga riporta il coso, riporta il paramotore, capito? Che allacci bene sotto. Guarda, adesso esattamente non mi ricordo, però se capiti di zona almeno la guardiamo e poi ti dico mi proviamo a fare una cosa del genere e poi ci fissiamo un appuntamento per farlo, ok? Ma hai ragione, l'unica cosa è fare così, hai ragione. Va bene, vado 10 minuti, salgo e te la faccio vedere. Io sabato ci sono sino alle 10, se non sta lavorando passa 5 minuti, se no verso metà settimana di lunedì mai venirci, perché prendo tutto il lavoro, c'ho poco tempo, magari martedì, mercoledì, così che c'è più calma. È più probabile di lunedì, è molto più probabile di lunedì, perché io sono in fine settimana, sto sopra lavorando, infatti volevo chiedere a cosa, come si chiama, a Stino, se c'era, se era di qui a sul campo. Io fine settimana, sto facendo i studi allucinanti, veramente. È arrivata l'estate, oh mamma, io tremo quando arriva l'estate. Un attimino, oggi al telefono, scusa un attimo. Rieccomi, ci sei ancora oggi? Sì, c'è ancora un attimino che sto prendendo una cosa al frigo. Ehi. Che avanti? Ciao Roba. Luca, tu sei? Ehi. Ma non eri tu? No, vabbè, tu non potevi essere perché tu c'hai il bip. C'era questa cosa, stava parlando Eugenio, lo sovramodulava. No. Sono appena entrato in camera. Eia. No, stavo provando un microfono con Eugenio, però dice che questa è sempre la numero uno di radio, che l'altra non va bene con l'altro microfono. Va bene, perfetta. Eia. Va bene, dai. E tu sai cosa c'è? Sempre la solita, no? Sì, quella tua, famosa radio tua, sì. Microfono normale. Eccomi qua, Robè. Sì, c'è anche Lucariello, avanti Luca per Eugenio. Eugenio, mi senti? Allora, già ti sento, piccolissimo, ma riesco a tirarti fuori, buonasera. Ok, anche io ti ascolto, piccolo, dai. Ti tiro fuori con le pinzette. Dove? Non è a casa sua. Capace se ho capito. Comunque ho fatto il secondo vaccino ieri. Adesso ho un po' di febbre. Tra dolori sono, grazie. Bravi, contenti voi. Scusatemi, oggi ma tu da dove state modulando? Io? Volevo modulare. Ma hai fatto qualcosa all'antenna? No, perché? Sta arrivando molto più forte di prima, quasi 9.15 sta arrivando, cioè un po' più basso di Luca, se Luca è 9.20 e tu sei 9.15. No, ragazzi, non ho fatto niente, no, io non tocco, non faccio. Io l'ho acceso, ho lasciato riscaldare 10 minuti e poi ho schiacciato. Non ho fatto niente. No, c'è un pochettino più alto adesso, vabbè, forse è la giornata, il caldo, magari quando c'è umidità magari arrivavi un po' più basso, poi sta arrivando fortissimo. E ovviamente Luca non lo sente, Eugenio, Luca, ma scherzi o davvero? Basso lo sento, sì che lo sento. Basso ma lo sento. Cioè, il segnale non è la radio meno di uno, là, proprio riesco a tirarlo fuori con le pinzette. Ma tu non sei a casa tua, sei a casa della tua fidanzata, Luca. Esatto, la casa già l'ho sento, voglia. E poi adesso tra un po' vado a prendere il tram, là. E niente, questo passo di vi saluto, Roberto, se ci siete dopo, se no ritenetevi salutati, ciao. Ciao Lu, alla prossima, vai Lu. Ciao Lu, ciao, io non riesco a portarti a sento un buon bottino, non riesco a portarti a buon fuori, non lo sentivo. Io fa la luce, avevo buco, sono affitti. Dovevo entrare anche stanotte, mamma mia. Deve rientrare stanotte, e quante ore hai fatto oggi? Oh, la so BG. Ma certo, voi non dovete stare nell'ambito delle 8 ore giornaliere? No, noi orari non abbiamo. Noi purtroppo orari non abbiamo. Ma ti pagano gli straordinari quando ci stai di più? Vabbè, no, grazie, lo faccio. Vabbè, ma non ti devi ammazzare, cioè c'è uno non è che puoi stare 12 ore lavorando, no? Sì, anche di più abbiamo fatto. Inizia a non essere stanco, lo so, inizia a essere stanco. Ma la ferie non te le prendi oggi? No, le ferie ce la dicevo, noi le stanco ferie niente. Che cazzo, quindi più bello della stagione, vabbè tu già sei, già t'arrangi, già c'hai il camper, già riesci a uscire. Vabbè, stavi uscendo, sei uscito qualche giorno in camper. No. Beh, adesso non è iniziata la stagione, non sto usando il porto. Non sto usando il porto. Perché quando magari oggi perché ero una canapa, ho fatto un altro turno, e sono uscito adesso al volo e devo rientrare a mezzanotte, perché di solito quando entro a mezzanotte esco e sono in Tirino e faccio alle 9:30, 10:15 ce l'ho al porto. E mia moglie, poi quando io entro a lavorare e se ne torno a casa io rimango un po'. Adesso è tornato al camper? No, il camper rimane lì perché come finisco a lavorare, capito? Come finisco a lavorare, magari ho l'altra nave adesso alle 8, mi riposo un po' lì e faccio la doccia e poi arrivo a lavorare. Almeno serve qualcosa al camper, dai, sono contento, almeno se no mi scappo a strada, torno a casa a due, infatti la doccia sei più sudato di prima quando arrivi. Noi l'estate la terminiamo, l'estate la terminiamo. Arrivi a fine mese che vabbè ti viene il sorriso, però arrivarci a fine mese. Già lo so, una bella sciacchinata, poi con questo caldo, finché sei di notte dai, c'è un po' di arietta, ma a punta di mezzodì, cazzo, a vedere, non ti invidio niente, no? Poi, l'altro giorno non c'è il trattore, ma tu mi segnavo qua dentro, 80 gradi, 80, ho mandato il video a mia moglie, mi ha detto, tu buttati la qua in testa, ma non ce l'hai aria condizionata in quel trattore? Sì che ce l'abbiamo, ma non è puoi usare. Non è puoi usare perché stai sali e scendi, dal freddo al caldo, dal caldo al freddo che ti uccide. Sì, mamma mia, non lo so, ma rimessa un po' al minimo senza. Se no ti sciulli, cazzo, ma tu che sauna ti vai. Lo so. Mamma mia, l'estate è bella, ma io sto iniziando a odiarla. Ma quanti siete che fanno il tuo lavoro? Naturisti come me. Eia. Siamo insieme. E ci avete i turni di 3 persone o di qua o di 2? Come non ti ho capito. I turni sono di 2 persone o di 3? Di 2, ad esempio io oggi ero da solo. Adesso mi sono fatto una lavoro da solo. Perché mio collega ha fatto più l'orologio e ho detto la mia casa, riposati un po'. Capito? Ci arrangiamo così, se no non è un problema. Ok, adesso che è stato Antonio, avanti Antonio. Sei tutto in alternata, cosa hai combinato Antonio? Questo capo devo cambiare allora. Ah tu, guarda che fai danno, un bel forte si sente. Adesso non si sente, aspetta. Ora. Ora. Adesso non si sente più bene, no? Va bene adesso? Nulla uguale a prima. 10 Giulio, buonasera giù. Adesso va bene. Era quello che mi aveva detto una persona. Me l'aveva detto a Claudio, quel pulsantino di sotto. Adesso va bene. Adesso va bene, mi sembra di aver sentito Giulio in sottofondo, avanti giù. Ciao Robè. Sì, sta facendo male, sì Antonio, sta facendo male. Ciao Antu. Va bene, adesso gli ha aiutato un po'. Vabbè, ancora un po' complessa la radio, comunque già va bene. Ciao Jimmy. Ciao signor Giulio, buonasera. Buonasera, e allora come va? Già va bene, dai. Già va bene, adesso che ci siamo rinforzati a forza di vaccini. Per cui non c'è problema. Va bene. E tu fatto il vaccino oggi? Dai, io vado a mangiare. Dai, la radio va bene così. Ci risentiamo, dai, scusate. Ok, tanto va bene. Buona giornata, io tra poco vado. Vai, oggi, scusa che sta parlando a tutti. Ciao, Anto, buonasera. Buonasera. Sì, ho fatto il vaccino. Andare, tutto dovrebbe fare uno, però un ghiacciato, perché con tutto il caldo che prendi avrebbe fatto comodo un bacino bello ghiacciato. Luigi, cosa ne dici? Magari un bacino fatto di acqua tonica ghiacciata, cosa vuoi dire? C'ho tutta la testa sellata. Ah, ma roba, beato, scusa, è oggi roba fresca, già Romacco già ce l'avete, un frigo di lì a portata di mano. A Puglia, abbiamo il frigo, abbiamo il frigo a posto, abbiamo tutte le bibite, non ci manca niente, qua non ci manca niente, ci siamo organizzati, abbiamo la Coca-Cola, la Sprite, la Fattoni, c'è tutto, l'ultimo momento abbiamo comprato il succo d'ananas, abbiamo tutto, l'acqua stamattina, abbiamo tutto. Dai, la manco visto, dai, qualcosa di fresco, dai, vai giù. Ok, e chi va a piazza, la compagnia, o voi la comprate, oggi? Noi, come compagnia portuale, la compriamo, non io personalmente, ma la compagnia portuale, andiamo, facciamo l'ordine, ci arrivano il PI così, il PI che è l'officina. Nelle spogliature. Ho capito, è quello che intendevo. Va bene. Sì, vanno molto bene comunque, anche di radio, non c'è problema. Avanti, va bene. È quello che ho detto io, lo sento più forte del solito. Va bene, io l'ascoltavo sempre oltre 9, 9, 5, ma oggi arriva quasi 9, 15. Più forte del normale. Sì, arriva forte di radio, la radio è forte. Ma Santiago è sempre quello, ma la radio è bella, bella pimpante, regolato bene. Quella radio è regolata bene. Avanti, oggi. Signore, io sono da dirvi, sempre questa io non sono uno che tocca, che fa, io l'unico responsabile che tocco è l'accensione, non tocco niente, neanche i vatti sono sempre quelli, 10 watt fissi, perché non mi va di strapazzarla, sempre fissi, non tanto mi sento tutti, 10 watt vanno benissimo, quindi sempre quelli, non ho toccato niente, l'unica cosa che ho cambiato è l'antenna. È quella che mi sentivate sempre, la Formaster, la Game Master. Va bene, come antenna va bene, Sergio, non c'è problema, come quella che ho io, dai, e ce l'ha anche qualcun altro, ce l'ha anche Gianfranco, ce l'ha e qualcun altro, ma già vanno bene come antenne, sono leggere, flessibili molto, quello sì, ma va benissimo, non c'è problema, senza radiare, dunque anche silenziose, molto silenziose. Sì, Santiago Lopez mi sta arrivando, oggi, già va bene, dai, non c'è problema. Avanti, Roberto. Tu, anche tu stai spingendo giù, 9,25 se, perché qualche volta ne è un pochettino di meno, 9,20, adesso è 9,25, tutti furti siete oggi. E quando ti arriva te, Eugenio, da te, Giulio? 9, Santiago 9, manca un pelino, ma proprio niente praticamente, per essere proprio 9 pieno. Eppure tu dovresti essere più aperto di me verso Porto Torre, è strano qua. Anche tu hai lo stesso segnale qua, 9 pieno. Questo segnale abbiamo. E io oggi quanto ti arrivo? Ma tu sei 9 come Giulio. Qua sei 9 come Giulio. Quindi più o meno corrispondono. In ricezione però io lo ricevo meglio. Ma quanto una ricezione non per dire cacchio micidiale. Io piglio un bel di QRM qua, un bel di Mondetta, però c'è una bella ricezione questa posizione. Sei nato, vabbè, è chiaro, io sono nel posto. Voi ve dovete mettere in testa che io rispetto a Porto Torre e rispetto a Sassari sono nel fosso, nella conca in poche parole. Io sono 90 metri sotto il livello di Sassari, Sassari a 225 metri, lì lo sappiamo dove, e io sono a 135 sotto casa mia, 135 metri sotto, per cui sono 90 metri sotto casa, cioè sotto Sassari. Infatti da Ottava, ad esempio, da Ottava arrivano più forti a Sassari da me, perché? Perché Ottava è più in alto, mi passano sopra, ok, avanti vabbè. Ma tu come distanza me ne prendi 5 km almeno verso Porto Torres, cioè, rispetto io sono tutto dall'altra parte. Ma non è questione di distanza, è questione di altezza. Le vostre antenne tra di voi si vedono, la mia invece no, rimane sotto, rimane in cantina, ecco qual è la differenza. Il discorso è sempre quello, non c'entra niente il fatto che io sono più vicino a Porto Torres di quanto lo sei tu, primo. Perché? Perché le tue antenne, con la tua antenna, con quella di Eugenio si vede, mentre invece con la mia non si vede, come non si vede nemmeno con te, l'antenna mia non si vede con te, ecco com'è Roberto. Quanti metri sei tu, Giulio? 135 metri sono io, sopra il livello del mare, praticamente sono 90 metri sotto Sassari. Allora io in questo momento dove sono io, che sono più in alto diciamo dalla parte bassa, sono 265 metri col GPS. Appunto, io sono a 135 metri sotto casa, misurato col GPS professionale. Io da sotto casa sono a 135 metri, sicché ti puoi immaginare, Sassari è a 225 metri, è esattamente via Canica, più o meno all'altezza di Canica, dove c'è la ferrovia, là, diciamo, di Canica, lì è a 225 metri. Io sono ancora più in basso, 90 metri più in basso. Ehi, vai Oggetto. Ehi, io non lo so a quanto sono... Sono all'ingresso di Porto Torres, non so quanto sia alto a livello del mare, ma ci poco penso. Non lo so. Io non penso che sia più alto di 50 metri. Tu dove sei? L'ingresso verso Sassari o l'ingresso verso il porto? No, l'ingresso... Arrivo da 131. L'ingresso arrivo da 131. Di fronte a cosa? Ai Bissoni, se di lì sei? Un po' più su. E quindi magari sei più di 50 metri di lì, forse qualcosa in più. Il tuo vantaggio, Roberto, è che sei molto in alto tu, sicché tu dall'alto riesci a vedere tutti. Salvo naturalmente se uno è nella conca, come sono io ad esempio, non è possibile, perché in pratica sono nascosto rispetto a tutto. Mentre invece tu dall'alto riesci a vedere l'orizzonte di Porto Torres, l'orizzonte di Alghero, soprattutto di Alghero, cosa che io con Alghero non mi vedo, ma nemmeno per idea. Che sì, già vivo, ci parlo, li sento anche, ma li sento bassissimi e mi sentono basso, perché? Perché non c'è coso, no? Come si dice? Apertura. Vabbè, già mi hai capito, vabbè. È apertura, volevi dire. No, apertura, non c'è visione ottica, ecco, quello volevo dire. Non c'è visione ottica tra le antenne. Io da Alghero, grazie a Dio, dove sono messo la faccio molto bene, perché è tutto a vista. Sono un po' coperto dalle zone tipo, che tu molto sei più aperto di me, tutta la zona Castelsardo, Balisi, tu di lì sicuramente arrivi molto meglio di me. Beh, in quella zona diciamo che mi difendo bene, ma per Alghero no, perché? Perché c'è Monteolo davanti, io tra l'altro sono troppo sotto a Monteolo. Se fossi stato più lontano, che so io, non so, ad esempio a Signori, tanto per fare un esempio, che è lontano da Monteolo, più lontano da Monteolo, è come quello, tu faccio un paragone abbastanza banale, però molto significativo. Se tu fai un salto in alto e prendi la rincorsa da 2 metri dall'asticella, cosa salti? Salti poco. Se invece la prendi da 5 metri la rincorsa, salti molto di più. Non so se mi sono spiegato bene o Roberto. Sì, più o meno, già è chiara la soluzione, il discorso. Oggi tocca a te adesso, riprenditi il mic. Sì, vai, ti approfitto ragazzi, ho provato a farmi una voce, vai. Mi sto mettendo gli occhi, sono stanco, stanotte vuoi riprendere. Qua ne approfitto, vuoi riprendere un po'. Ciao ragazzi, ciao Roberto, io Giulio, ci sentiamo alle prossime, vai, ciao. Roberto, molto probabilmente ci vediamo domani mattina, ok? Se... orari lavorativi permettendo. Beh, ci sentiamo dopo il seguito, ciao. a tutti. E a ciao, cioè, buon tutto, sempre per ci ascoltate, quando vuoi passa, vai giù. Ok. Ciao G, stammi bene, buon lavoro, vai. Vabbè, lo so, certo, un lavoraccio suo, perché lo sai perché è un lavoraccio quello di Eugenio? Perché lavora troppo al caldo, Robè, se no il lavoro sarebbe anche bello, che poi tutti i lavori sono belli, però quello suo in modo particolare, quando cominci tu a vivere in un ambiente dove c'è un caldo esagerato, è chiaro che si butta giù anche, no? Può essere l'uomo più forte del mondo, però il caldo abbatte un po', no? Gianluca, hai sentito quanto c'era dentro la motrice? Cazzo, 80 gradi, il motore poi scaldano perché lì rimangono fermi sotto il sole, più la temperatura che genera all'interno ti sciugli, mamma mia. Lui si prende tutto il caldo e tutto il freddo, perché allora, poi la cosa brutta, cioè io pensavo lavorasse 8 ore e poi un giorno di riposo, invece dice anche 12, anche di più nel fare di 2. Vedi, appena smontato, poco fa adesso stanotte deve fare di nuovo la notte, cazzo, così è che ti distruggi. Purtroppo è così. Purtroppo è così, quel tipo di lavoro, pertanto lui è costretto a farlo perché giustamente il lavoro serve, se ci mancherebbe altro. Però capisco benissimo che sono condizioni quasi proibitive, non ci sono dubbi. Anzi, è già tanto che lui lo fa quel lavoro, nel senso che è una cosa quasi disumana stare in un ambiente dove ci sono 80 gradi, ma vuoi scherzare? Il lavoro bisogna sopportare. Vabbè, lui ormai sarà anche abituato, però questo non significa che non ti butta giù. E poi la cosa che mi dispiace per lui, dice che ferie adesso, perché noi aspettiamo sempre l'estate per prenderci le ferie, e lui l'estate lavora più degli altri periodi, le ferie c'era a dicembre. Sì, che ti puoi immaginare. Anche quello è una cosa un pochino fuori dalla norma, perché non è possibile che uno possa fare le ferie a dicembre. Sì, ci sono altre categorie che fanno le ferie a dicembre, però una volta che tu hai superato quei mesi, settembre, ottobre, le ferie non sono più quelle normali, diciamo. Sì, è sempre un periodo di riposo, non ci sono dubbi, perché è fondamentale. Anzi, lui avrebbe necessità di almeno fare due volte l'anno le ferie, non una volta, ma almeno due volte, visto considerato il lavoro che fa. Già lo so, purtroppo ci sono anche quei lavori, perché quelli che fanno il catrame, che aspettano la bella stagione sotto l'usore, perché d'inverno non possono lavorare, quelli che lavorano l'estate, in piena estate, a mettere la guaina catramata, a nebbiare il calore. Certo che sì, e tu immaginati i pizzaioli davanti al forno in piena estate, tu mi dirai, ma lo fanno la sera? Sì, d'accordo, lo fanno la sera, però sei sempre davanti al vulcano, è chiaro che ti indebolisce, no? Il fisico umano a un certo momento non è che è fatto di acciaio, no? è sempre il fisico di una persona che a forza di accumulare, chiaramente poi arriva il momento che sente una certa stanchezza, è ovvio. Già lo so, poi magari la Eugenia è ancora giovane, ma poi col tempo, se questo lavoro lo fai per anni e anni, che anche alla fine ti esce fumo la testa, ti invecchi, e anche i reumatismi e cose del genere, la salute ti bisogna salvaguardarla. Ma cosa stai dicendo? Ma cosa stai dicendo? L'ho fatto la vita in mezzo all'acqua io. Ciao, buonasera a tutti, sono per la salute. Grazie. Ciao, manda qualche bella però quella tua. L'acqua calda era quella tua, Claudio. anche quello perché in inverno il lavoro che faceva Claudio poco lo considerava, ma carità, anche quello d'inverno. L'estate, vabbè, anche l'estate non era tanto semplice, insomma, uno che lavora così fuori all'esterno non è tanto semplice, no. Purtroppo dobbiamo lavorare e sopravviviamo lo stesso, non è quello. Non siamo in Parlamento noi, no? Con tanto di aria condizionata eccetera, che da voi mi raccomandani la maggior parte. Ciao Clara, riprendi. Ciao, buonasera a tutti, non sono andato a salutarvi, ero di passaggio qua. Vabbè, la giubilea di un caldo, il caldo a diventare negro in faccia, però quando va al mare è uno schifo, capito? E d'inverno acqua, un bel parola giubilato, infatti. questo punto avevo il garraggio, purtroppo lavorete e ne sono così. Io per i primi anni, 5-6 anni, ho lavorato internamente perché ero a tempo reale, a Perfora, l'impianto di Perfora era contabilizzatore, quindi facevo i miei turni ma ero all'interno. Quando sono passato alla depurazione ho iniziato a prendere colpi. E vabbè, siamo vivi ancora, dai, ok. Dipende, vabbè, un altro passaggio poi vi lascio, che vado a mangiare. Vabbè che sei stato bene, che sei stato bene, riparato e tutto. Ma io sono stato bene all'impianto di Perfora perché eravamo in quattro. Facevamo i turni, due di mattina e due di sera. Si faceva solo due turni, si faceva dalle 6 alle 2 e dalle 2 alle 10. Quando sono andato a Tronco Reale ho iniziato a soffrire un po' di più a Monte Agnese e ancora di più, perché lì si facevano tre turni, gli impianti sono grandi, quindi non puoi riposarti, devi stare sempre a occhio vigile, in sala quadri, controllando le uscite, facendo analisi, eccetera. Però per 5 anni sono stato veramente bene. Ma dov'era, scusa giù, dov'era quello che cacchio ti trovavi da solo alla notte, alla Azzurra, dov'era? A Perfulas. D'inverno, alla Azzurra. E me della campagna, infatti alla fine mi ero stufato, una mattina sono andato e conoscevo il comandante del carabiniere, e ogni tanto lo faccia scendere la pattuglia, è tutto buio l'impianto, c'è un paio di fari all'interno, la strada è bianca, è buia, cioè può entrare chiunque, io sono da solo, sino alle 10 d'inverno, poi dalle 5 faceva buio, quindi 5 ore al buio da solo, era un po' tosta, infatti a volte mi portavo il cane, avevo già un cane, un pastore tedesco che mi è morto, lo portavo e stava sempre vicino al cancello, come sentiva qualcosa abbaiava, però a me mi si stringeva il culo, non è che lo devo dire francamente. Ogni tanto scendeva la pattuglia dei carabinieri, accendeva quel faro che c'hanno, tutto a posto, sì, tutto ok, grazie. E quindi se una volta che vedono, anche chi ti punta, vedono che c'è il passaggio dei carabinieri, non si avvicinano, capito? Sì, vai giù. Ok, beh, certamente sì. Comunque ogni mestiere si sa, ha i lati positivi e anche quelli un po' negativi, perché purtroppo è così. Poi ci sta l'operaio, cioè il lavoratore si adegua sempre a qualsiasi tipo di lavoro, no? Non c'è problema, è già l'ubito, perché pensi che quelli ad esempio che lavorano su in miniera che siano meglio, anche se lì sono fresco, non lo sono, sicuramente anche lì è una vita da cani, veramente, come è vita da cani ad esempio come quello che lavora in piena estate in facciata sopra il ponte, lavorando da muratore eccetera. Si sa, ci sono i momenti buoni per ogni lavoro e i momenti meno buoni, e anche da me in falegnameria noi che ci stavamo così tanto bene, se dobbiamo di più, ma sempre tirando a 10 ore al giorno di polvere, se non fanno parlare poi quando stavi verniciando con tutti gli odori eccetera, delle vernici eccetera, per cui si sa, il lavoratore è il lavoro, è il sacrificio, e la gente dice il lavoro non ammazza, no, il lavoro ammazza anche, altro che e distrugge proprio la persona. Vai Claudio. Il lavoro è quello, ma io l'inverno ero anche a volte in situazioni molto pericolose, perché quando sono andato l'incarico della depurazione, ho seguito tutta la depurazione, c'erano dei sollevamenti a mare, tipo quello che c'è lungomare di Castelsardo, proprio devi scendere giù dalle rocce, non so se l'avete mai vista, c'è una casetta, lì c'è un sollevamento fognario, dove ci sono 200 metri di 200-300 metri di condotta marina che mandano a mare la sporcizia, capito? Questo per farvi capire dove viviamo. Soprattutto quello dell'isola Rossa a Porto, quello dell'isola Rossa a Porto col maestrale io non potevo andare a fare la lettura della strumentazione. Una mattina me l'ho scampata per miracolo perché stavo tentando, c'era un maestrale allucinante, le onde arrivavano sino a metà quasi dell'ingresso della porta del sollevamento. Ho detto vabbè, lo faccio dopo, intanto verso mezzogiorno calmerà, sono andato a fare altre cose, sono tornato, non c'era né più porte né più impianto, perché è arrivata un'onda enorme, ha crepato tutto, è andato in tilt tutto, centinaia e centinaia di milioni di euro, digitale e tutta con sistemi di allarme di ultima generazione, perché è un progetto che hanno fatto, che aveva stanziato la Comunità Europea proprio per essere a norma, per non avere problemi di allagamenti sulla scogliera e poi lì c'è di, ci sono due alberghi grandi, la Marinedda e Padueda, quindi capito? Non c'era più niente, non toccava i vigili del fuoco, tutta è arrivata la capitana dell'aeroporto, è arrivato il dirigente della mia azienda, se a me mi trova dentro oggi non te l'avrei potuto raccontare, quindi. Appunto, figurati, e parliamo anche di quello, ad esempio, il vigile del fuoco, soprattutto in questo periodo, ti puoi immaginare che razza di situazione che vivono, è una cosa intanto molto pericolosa, non sa mai, ragazzi, il fuoco ti avvolge tutto, e uno già lo sappiamo che più di uno ci è rimasto, parliamo di un po' di anni fa, lì nella zona del Tempio, quando erano morti quelle 8 persone, non era Bogo, per cui per dirti, anche quello è un lavoraccio, io lo so perché quel lavoro lì l'ha fatto mio fratello anche, tra l'altro in quegli anni era proprio in servizio lui lì, in quella situazione di Tempio eccetera, e lì c'è, tu dovevi vedere lo strazio del giorno, una cosa assolutamente impossibile da raccontare anche, perché solo a raccontare ti fa venire i brividi. Io lo guido in mezzo al fuoco, lo so io, lo sai da quale parte uscire, contro il caldo o anche il fuoco. Beh, Roberto. Io sono mio cognato, già lo conosci, tu c'ha lo stesso nome del caro amico tuo vicino, nome e cognome. Di Giulio, e lui e quelli sappa ancora peggio, quelli vanno a visore cose gravi, quelli che vanno quando ci sono alluvioni e salvataggi di cose, si buttano dentro le grotte, perché lui fa parte del nucleo speleologico, quelli che scendono nelle grotte, nei pozzi, ogni tanto non recupera già anche d'uno, ma quelli escono con qualunque tempo, non è che devi esci solo se c'è bella giornata, soprattutto escono in inverno qui. E certo che sì, appunto sono lavori molto pericolosi, sono posti buoni, perché sono posti sicuri, stipendio sicuro, assicurati nel modo migliore, tutte queste cose qua, però il lavoro è rischiosissimo, non è uno scherzo, ma vogliamo scherzare, ma anche il semplice poliziotto, ragazzi, il terrorista, che sembra che sia un mestiere, anche quello è pericolosissimo, tutti i mestieri hanno una percentuale di pericolosità, tutti indistintamente, anche quello che rimane seduto in ufficio a tavolino, anche quello ha i suoi problemi, non c'è niente da fare, purtroppo il lavoro è così. Avanti Claudio. Tutti i lavori sono pericolosi, c'è sempre la pericolosità, tu stai dicendo a Tempio, a Curraggia, nell'incendio che c'è stato nell'87, non se lo ricordo. Io purtroppo ero lì perché facevo servizio attenti a Pischinaccia, quindi ero dietro le fonti di drenaggio, lì c'è tanta impermeabilizzazione anche lì. L'estate c'era il pericolo incendio, d'inverno quando facevamo i turni li facevamo dentro un container, fortunatamente in due, un container grosso, un container grande, dove c'era il bagno, il cucinino, il divanetto, insomma per riposarti, tutto il laboratorio, il mini laboratorio di analisi, insomma si stava bene, c'era il riscaldamento eccetera, però quando nevicava la notte lì si facevano tre turni, 6-2, 2-10, 10-6, e la mattina dovevamo aspettare le valve al cambio turno per con la pala togliere la neve per aprire la porta, capito? Quindi non te ne dico, anche io me l'ho fatto le mie esperienze lavorative, ho dato tanto e sono contento di aver dato tanto e oggi mi sono trovato solo bene. Beh certo che sì, ma è così, in effetti è così, ognuno di noi ha contribuito a fare grande l'Italia, per così dire, anzi no, per così dire, perché effettivamente è così, perché quando tu eri in servizio, magari tu sostenevi chi? Quelli che erano in pensione e così via, no? Ma tutti abbiamo fatto questo percorso qua, ma è normalissimo, per cui come vedi i lavori sono tutti di grandissima importanza, no? Non ce ne sono lavori umili come qualcuno può pensare, eccetera. Per qualsiasi lavoro è importantissimo, non c'è niente da dire per nessuno, ci mancherebbe altro, tanto di cappello e tanto di buona fortuna a tutti quelli che lavorano, ci mancherebbe altro. Purtroppo così. Certo, stare a casa senza fare niente sarebbe più comodo, ma non sempre si può, anzi diciamo perlomeno la maggior parte delle persone non possono stare a casa senza lavoro. Adesso già ci sta qualcuno, basta dire quelli che percepiscono il reddito di cittadinanza, qualcuno gli offre qualche lavoro, ma stai scherzando, ma ti pare io vengo a fare 8 ore per 800 euro quando me ne danno 700 usando in casa? Sì, non è proprio esattamente così, per prendere 700 euro come cosa o come reddito di cittadinanza ci devono essere dei motivi validi, se no io conosco gente che prende il reddito di cittadinanza per danno 40 euro al mese, che ti puoi immaginare, non è sempre così, dai, lasciamo perdere, poi anche quello è un altro discorso, ma quello lì è stata una cosa stupida che hanno creato i nostri governanti, per cui non è un altro discorso, se quei soldi l'avessero dato magari alle aziende, dici tu mi assumi le persone e io a te ti do un certo contributo, forse sarebbe andato meglio, anziché dare alla gente che poi magari vanno a fare anche mafiosi e i camorristi come abbiamo anche di recente scovato persone che sono camorriste, prendevano le cose, un reddito di cittadinanza, con tanto di barca, con tanto di appartamenti, eccetera, eccetera. Cose che fanno ridere anche i pulli. Avanti Claudio. Sì, viene anche avanti io. Sono rientrato. Ciao Anto, buonasera, ben ascoltato. E adesso aspetta a fine anno che già c'è la modifica per il reddito di cittadinanza. Il cittadinanza lo danno a chi ha lavorato almeno 25 anni assicurato, ha avuto problemi sul lavoro, licenziamento e cose varie, chi ha problemi appunto di salute e chi non può più lavorare, chi può andare a lavorare e venire Google nel futebito. C'è una revisione dei conti, ha deciso così. Quindi a chi spetta veramente lo prende, chi deve andare a lavorare invece stare a casa a grattarsi le balle va a lavorare. Vai Anto, buonasera. Capa, buonasera. Però c'è molta gente, quest'anno ci sono lamentati, dice che non hanno personale, non hanno, anche per il coso turistico. Invece voi siete più bravi, sono più bravi loro. Cioè se vuoi lavorare tot, se no te la bigli in gli occhi. Quello è buono secondo alcune persone. Cosa significa questo? Sì, io dico, reddito cittadinanza lo devono dare a persone che ne hanno veramente bisogno e cosa. Però adesso a molti gli hanno dato, non puoi travagliare perché hanno questa roba qua. E molti ci stanno lamentando, però loro non si ricordano quando i signori ristoratori, i signori testine di cavolo, quando dici qua se vuoi lavorare a 30 euro, neanche senza, anche senza assicurazione, se no ti arrangi. Quello non se lo ricordano però. Se ci facciamo due pesi, facciamo 5 misure e un peso facciamo e basta. Cioè, non se lo ricordano queste cose. Cioè, le cose devono essere fatte bene, anche chi lavora deve essere retribuito bene. No, cioè, come si dice, non voglio dire parolaccemi. Cioè, come tu mi vuoi. Prendo io che ti lascio che pronto la cena. Anto, c'è gente, ma non voglio lavorare. E qua la chiudo, ok? Perché mia figlia è stata 2 mesi e mezzo, quasi 3 mesi, senza portare manco un libro a casa. Però non gli hanno dato nessun incentivo, tutto quello che aveva ce l'ha buttato nell'attività, quindi non aggiungo altro. E ti aggiungo anche che il venerdì e il sabato, lì dove sei tu per non fare molta pubblicità, no? C'è un extra, un ragazzo che è l'età tua, ma non vuole muratore, esce alle 5:30, arriva a casa, si fa la doccia, stanco morto, distrutto, perché l'ho visto, l'ho distrutto, un ragazzo giovane, ma si vede che è molto provato perché lavora in manovale e con questo caldo che sta facendo discende il leggero midollo. E fa dalle 7 fino a chiusura, mezzanotte, l'1:30, fa gli extra, il venerdì e il sabato per arrotondare, capito? Fa due cose, perché ha voglia di lavorare, ha voglia di avere i soldi in tasca, molta gente non ne ha voglia né di lavorare e voglia voglia solo di avere i soldi in tasca alle spalle degli altri. Chiudo il discorso. Ciao a tutti signori, divertitevela, buona cena, buona digestione per chi l'ha fatta. Fate il robo, ascolto i finali e poi chiudo. Ciao ciao. Ehi, anche io chiudo adesso. Quello che hai detto Flavio è giustissimo, perché ti porto prove. A tutti, ci saranno i miserabili che ne approfittano dei ragazzotti, li sfruttano, niente da dire. Però se uno ha veramente ganato di travagliare, lo trova qualche cosa da fare. E poi naturalmente ci devi fare prima i sacrifici, dai, chiudiamo il discorso. Io adesso saluto a tutti, ciao Claudio di nuovo, ciao Giulio, ciao Antonio, anche io vado a mangiare, Mari dopo se è una giugana ci sentiamo se c'è qualcuno. Cuoriti da parte mia, di nuovo ciao a tutti. Oh, ok, dai, anch'io mi hanno già chiamato, per cui anch'io devo chiudere. Ciao Claudio, ciao Roberto, grazie per la chiacchieratina, ciao Antonio, ci sentiamo, dai, anch'io che mi hanno chiamato già da almeno 5 minuti buoni per la cena. Ci sentiamo, ciao Antonio, riprendi, chiudo, ciao. Capa, ciao ciao a tutti. Io la penso un po' diversamente, la penso. Anche fare il doppio lavoro, ma poi cosa io devo fare il doppio lavoro? Cioè, perché? Perché il cazzo di questi imbecilli non pagano il gatto? È logico, devo farmi il doppio lavoro. E poi ci rimette un altro che quel lavoro lì lo deve fare veramente. Ecco perché. Cioè, se questi imbecilli non si decidono a pagare il personale, sarà sempre così, sarà. Che magari chi si buona robizzino nei ricasini, tocca fare così. Capito? Sicuramente sarà così anche, però un ragazzo che ha voglia di lavorare, capito? Non lo so. È un ragazzo che lavora, che fa il suo lavoro durante le 8 ore e poi la sera va a fare questi extra. Tutto qua. Vabbè. Va bene, ok, beh, io vi saluto, ho sentito una risatina sotto, ridi, ridi, bambini, lo percepisci tu in questa serata, non fai niente la mattina alla sera, ciao a tutti. Ok, ciao, ciao, non so carebbo. Non so, non mi interessa manco saperlo, ciao. Oh, saluti Giulio, dai. che male sortire che sta cosa. Aspetta. Va a mangiare i cazzoffi, vai. Beh, sai quando vado al mare mi porto il panino, no? La spenacca. Però io mi ho mangiato, lì è semplice come è andato. Però me lo mangio a per cena, dai. Ho detto un pezzo di melone. Come ci ho mangiato quella spenattina con l'insalata e una banana. Mi sono bevuto un paio di bicchieri d'acqua. Mi sono preso una bevinci. Vinci, ti fate bisciarmi. Andiamo, andiamo, che? Oh, ma sento che c'è un ventilatore, no, che? È proprio di freno, la persona non gli fa niente, la persona, tipo mio fratello l'ha fatto, il primo, che il secondo l'ha buttata a terra, c'aveva anche febbre. Chissà che marazzo sia che c'ha goccia. Disgusati. Ma per il suo cazzo di ventilatore si ricudo gli osso. Cazzo, gli ho fatto lo strattone e mi sono fatto male. Certo. E che c'è il ventilatore che mi sta dando problemi. Ah, quasi baciuto, chi te ne varia la massa, te ne varia. Cosa tu? Che c'è quasi partito, il ventilatore mi sta dando problemi. Ehi, a fasci. Piano piano, già facci. C'ho il ventilatore col telecomando, quello che c'ha 5 pale. Sapevo un riflesso. Poi ci c'erano delle notti, mi dovevo alzare, attaccare la spina, ho visto, niente. Vabbè la manetta. Mi segna i gradi, è un bel tocco, No, ti vuoi sentire un tocco di ventilatore? Cazzo, se oggi non ne vuole sapere di funzionare questo ventilatore qua. Allora, se non parte ti vuoi sentire una cosa, ti vuoi sentire. Mica è partito il ventilatore, se no si ricudi a Iosso. O da Gabbisciuria te lo fatti appurare. Si è salvato il calcio d'angolo, solo lasciamo la porta aperta, ti facevo sentire come scendeva qua da 2 metri. Tutto imbarrato. Andiamo e andiamo, e che parte a cosa, parte. Bisogna dargli l'invito con la mano. E quando la biglia, la biglia. Ma ora forse è andato lo do come. Se no vedi che la posso pure agli osso. Allora, se il verificatore ti chiede di vedere il biglietto e non lo hai, cosa sei? E allora ti riponi l'occhio. E ti piglia la multa. Biglietto della lotteria, preso gli hai o no? No. Io l'ho preso uno, fa 3 euro, già. Vediamo se ci ha che cosa, ah, i primi mi hanno detto che c'è un pacco di preservativi, ma da voi per chi piace è uno di chi si cose in gomma. Care, avanti. Uè, ciao, che sei, Cristian? Cappa, uè. No, era mi ridendi così. Cappa, cappa, sta bene? Cappa. E magari se ci dà quel buco ci sentiamo ancora più, anche più forte, dai. Cosa fa? La pedina magnetica, basta andare piano. Se è buona già non si stacca. Tiene? Allora già va bene. Cappa cappa, ma in casa non l'hai più. Ah, ok, dai. Io adesso passo in queste zone già te lo faccio addrizzare bene lo smitter. Pino, avvedi. Scappa. Ora io faccio la mano nella busta. Uiuia. Scappa. Passi in zona Corso Picco, ti posso mandare la zamba. Scappa, non c'è problema. Luca, non ci sei più. Hola, hola. Mi senti adesso? Adesso sei più forte, sì. Dove sei? Vado a Trentino, direzione Canitalia. Capo, Santiago Nova, Radio 5. Tu bene mi senti? Vabbè, forse è coperto dai palazzi un po'. Capo. Certo, benissimo. Sentiamo, qui sulla Roma 30, con la scala, Radio 5 per la proposta, dai. Anche tu sei bello forte, sei. Ho cambiato apparato, non c'ho il Mobicom, c'ho una 78 bus. Kappa. No, ti stavo dicendo, adesso sei arrivato forte, adesso sei 9.30, sì. Da che parte sei di Viale Italia? Sono solo a 21 quasi, sono a metà di, diciamo, l'ingresso di Uri.